English Bit di Giulia Crivelli. Boil over. Bernie Sanders, Democratic Establishment Battle boils over, che potremmo tradurre con la battaglia all'interno dell'establishment del Partito Democratico esce dalla pentola. Dobbiamo per forza tradurre così in modo non certo elegante, perché non abbiamo l'equivalente in italiano di to boil over. Era comunque il titolo dell'articolo che il Washington Post ha dedicato alle ultime tappe del percorso verso la nomination per le presidenziali. It was really just a matter of time. Era solo una questione di tempo. With the Democratic presidential primary in its twilight, con il percorso delle primarie democratiche che si avvia a conclusione, twilight è crepuscolo, frustration within the ranks over the party's and the handling of the primary process spilled out. Spilled out, boils over, stesso significato, cioè proprio esploso, uscito dalla pentola letteralmente. Il verbo che ci interessa è appunto to boil over, un phrasal verb che parte da to boil, un verbo regolare che significa bollire e che ha spesso però un significato figurato, non solo quindi il latte che esce dalla pentola perché ci siamo dimenticati di abbassare la fiamma. Racial tensions finally boiled over in the inner city riots. Alla fine le tensioni razziali esplosero nelle rivolte dei quartieri più poveri. Traduciamo inner city con quartieri poveri perché in molte città americane le persone disagiate non vivono solo nelle periferie, come da noi, ma anche nelle zone dei centri storici, inner city, particolarmente degradate, un po' come accadeva in Italia, a Genova ad esempio, o a Bari. Altro phrasal verb è to boil down, che significa invece sintetizzare, ridurre. The original speech I had written got boiled down to about 10 minutes. Il discorso che mi ero preparato fu ridotto a 10 minuti. Oppure, in the end, what it boils down to is money or the lack of it. Alla fine si tratta solo di denaro o della sua mancanza. Boiling up, quindi altro phrasal verb, significa invece esasperare. I could feel anger boiling up inside me. Sentivo la rabbia crescere dentro di me. Usato come nome, ricordiamo infine l'espressione off the boil. The second series of the TV show really went off the boil. La seconda stagione della serie televisiva è stata decisamente deludente rispetto alla prima.